ci rendiamo conto che forse non riusciamo a comunicare lo sforzo che stavamo facendo. Abbiamo avuto l'assemblea nella quale abbiamo approvato il nostro bilancio annuale. Insomma, ci sono due numeri che secondo me sono abbastanza importanti. Preso il totale del nostro attivo, il 61% del nostro attivo sono crediti a famiglie e imprese. Siamo una delle banche, dei gruppi bancari europei con la percentuale più alta. Sono qualcosa come 600 miliardi di euro. È una bella cifra, no?